Dai. Rieccoci qui a diretta dal Nuovo Mondo, sempre Radio ZM, sempre giovedì pomeriggio alle 15. Siamo Cesa e Melmo. E mi stai parlando del mate prima, no? Che te lo bevi, cioè che lì si beve a colazione, ma si beve anche un po' durante tutto il giorno. Sì, diciamo che la. Allora, prima di tutto, cosa si intende per il mate? Il mate di per sé in verità molti si confondono e penso che sia l'erba che si beve dentro, in verità è l'oggetto il mate. Il mate è la zucca tradizionale dentro la quale si beve la yerba, cioè la yerba, come se fosse la yerba di. La yerba si chiama semplicemente yerba. Ok. E niente, funziona in pratica come funziona? Siccome si beve con acqua calda, okay, diversa sostanzialmente da si riempie una ciotola appunto che è cavata da una zucca, si riempie di questa yerba, che è una yerba che cresce solo in Paraguay, Ilex paraguayensis, e poi appunto questa yerba viene infusa e bevuta attraverso una cannuccia di ferro e viene infusa ogni sorso, possiamo dire, ogni due sorsi, si versa un pochino di acqua, lo si finisce, si versa un pochino di altra acqua, lo si finisce e si continua così. Ovviamente, ed è una cosa che in tempi normali, purtroppo questa è una delle cose che il coronavirus ha abbastanza rarefatto, è una cosa molto sociale, una roba che ci si passa, che ci si scambia, e dimostrare proprio anche amicizia, non so come dire, ti provi a parlare con qualcuno in un treno, uno sconosciuto, chiacchiere, in realtà una volta che magari ci sei un po' più in confidenza gli offri il mate, okay. E sì, offri il mate per esempio. Poi una cosa che mi ricordo è che, cioè, sicuramente quando sono venuto a trovarti che si piazzava, soprattutto non di sera, durante il giorno c'era uno più mate che ci si beveva un po' così. Io mi ricordo, mi ricordo la primissima cosa che ho fatto arrivato in Uruguay, che è stato cambiare i soldi. Il tipo in banca, mentre che cambiava i soldi, a un certo punto si è fermato e si è fatto una ciucciatina di mate e poi ha ricominciato. Cioè, mi aveva colpito di brutto perché era proprio, come dire, e ce l'avevano tutti in mano. Emblematico dei ritmi di vita, diciamo. Sì, sì. Delle priorità, io mi ricordo che al controllo dei passaporti, immagino quando era arrivato, ero rimasto 5 minuti perché il signore doveva averti in mate mentre mi controllava il passaporto. Ci sta. E sì, è così, e alla fine, non so come dire, secondo me è una cosa anche che ha più senso, anche perché si perde anche meno tempo, secondo me. Io a volte, l'altro giorno ragionavo, mi immagino nel lavoro, per esempio, in ufficio, una persona che va a berti il caffè, il giro il caffè, no? Che magari va fino alla macchinetta, beve il caffè, si ferma a fare quattro chiacchiere, si fuma una sigaretta, guarda un attimo il telefono, e alla fine si ferma per lo meno 10 minuti, mettiamo caso, 10-15 minuti, poi per riprendere a lavorare, per riprendere a concentrarsi, comunque aspetta un altro po', e quindi insomma la gente accusa molto il mate di dire perde un sacco di tempo, perché infatti durante i lavori continui a fermare e a riempirti questo. Però in verità fai un sacco di mini pausette senza mai perdere la concentrazione e continuando, non so come dire, alla distanza con il caffè a livello di bevanda, che appunto è una roba che devi continuare a bere e che però non ti dà, non so come dire, quello stacco rispetto a prima. Non è che di colpo sei più sveglio, semplicemente non ti viene sonno, non ti viene stanchezza, continui quello che stai facendo, sia legge, che sia studiare, che sia lavorare. E tu prima dicevi che il mate si beve soprattutto in Uruguay, Argentina, Bolivia e Brasile, nel sud del Brasile. Sì, si beve in modo un po' diverso, per sì. Ah, cioè, ma quello in ogni, non l'hai visto. In ogni paese si beve in un modo diverso il mate? O è... diciamo che non è così. Allora, diciamo che il mate trascina dal paese, nel senso di è una roba che viene da prima che dissero il concerto di Bolivia, Argentina, Uruguay. Certo. Mi dà, vediamo un po' di la, mettiamo in prospettiva la cosa, diciamo che il mal dovevano i guarani prima che arrivassero gli spagnoli, prima che arrivassimo noi, diciamo. E adesso nel 2020 lo bevono soprattutto in appunto soprattutto Argentina e Uruguay, sono senza dubbio i paesi maggiori consumatori, e, diciamo a livello di quantità l'Argentina, a livello di persone l'Uruguay. Ok. In Paraguay, per esempio, in Brasile so che lo bevono dentro questa la zucca, diciamo il mate, appunto, che si diceva l'oggetto in cui lo bevono, è molto più grande rispetto che qui in Uruguay. Per esempio, mentre qui è considerato molto maleducazione dare un sorso di mate e passarlo con ancora acqua a qualcun altro, in Brasile, per esempio, si riempie, si fa tutto il giro, si bevi, lo passi e si continua a passare, per esempio. Ok. In Paraguay, per esempio, bevono il tereré, che è sempre con le bananate, però è una pianta più fresca. Non si beve con l'acqua calda, con una specie di succo di arancia, da quello che mi hanno detto, quindi diciamo più pensato per appunto il clima caldissimo, afoso, paraguayano. Okay. Insomma, c'erano varie variabili, che ovviamente hanno, adesso non ho mai fatto uno studio specifico a riguardo, però ovviamente dipenderò da quella anche che è la presenza tradizionale anche di popolazioni indigene, quindi diciamo, mentre in Paraguay la popolazione è a maggioranza di origine indigena guarani, la gente comunque appunto continuano a evolvere questo uso del mate, in Uruguay gli indigeni purtroppo è da più di un secolo e mezzo che non ci sono, sono stati sterminati, e quindi di per sé quello che è rimasto è il mate così come si beveva, diciamo, nella maniera più tradizionale, e così è rimasto, non si è evoluto. Invece il tereré, per esempio, è già un'evoluzione più moderna, diciamo, è stata portata. Okay. Quindi diciamo, ogni posto ha il suo modo di berlo, più che per la questione dello Stato, lo definirei per le questioni delle popolazioni che ci vivono. Quindi anche nel nord dell'Argentina probabilmente vedrai gente bello simile a come lo bevono magari in Bolivia, quelli che lo bevono in Bolivia. Per esempio c'hanno anche a livello di altri costumi, nel nord dell'Argentina è molto diffuso il masticare la coca, per esempio, dalla parte di Jujuy, Salta, che è una roba che se vai a Buenos Aires nessuno mastica coca. Se vai nel nord dell'Argentina tutti masticano coca, se vai in Bolivia tutti masticano coca. Quindi cioè, questa è la questione, che l'America Latina e i confini sono confini coloniali e non sempre purtroppo coincidono con le popolazioni che ci vivono. Chiaro, chiaro. Ma il mate è internazionalizzato al punto che non segue minimamente... Al punto che è Zwam. Io per esempio mi ricordo, sì, diciamo che a me fa molto ridere quando a volte qua raccontavo, quando sono tornato in Italia... Adesso l'estate scorsa. Oh, bene, aspetta, vedo, scusami, ma vedo un messaggio di un'ascoltatrice che ci scrive. Sì. Adesso ti darò dei dettagli sempre di più, vediamo se indovini chi è. Una ascoltatrice che ci scrive. È già un'ipotesi, su quale ascoltatrice che ci scrive, è già un'ipotesi. Non ho capito un cazzo. Scusami. Allora, ci scrive dall'estero, non dall'Italia. Uh-huh. E l'abbiamo conosciuta al VV. Uh-huh. Se dovesse venirti però prova. Finiscila, dimmi quello che dice, però. E ci dice: Hey kids. Hey kids. E punto esclamativo. Vabbè, comunque, visto che non ti vedo tanto propenso a capire chi è, ci ha scritto Elettra, che è una fedele ascoltatrice di Radio ZM. Ah, bene. Ciao Elettra. Beh, ricordiamole che arrondò a Becca. Che? Non ho capito. Niente, Carlo Rondoni deve sempre girare a destra. Certo. Quante avventure passate insieme? Quante avventure. Ma Mamma non mia. abbiamo mai bevuto un mate insieme. Noi Sì, tre, beh, sì, effettivamente. ovviamente sì. Beh, però, guarda, i miei amici quando vedono il video, per esempio, della razza alla posta, sempre notano tutto il fatto che sei il mate. Sì, eh. Per esempio, il fatto che tu sei diventato Matteo, e quello volevo dire, anche il fatto che a Zamba, quando sono stato quest'estate, comunque a un certo punto, dopo un po' di volte, non so come dire, un po' di gente, tipo il compagno Gigi, un po' di altre persone, si erano abituate al fatto che comunque si è creata una qualche ritualità di Zamba. Del mate, da un certo punto di vista, quindi pare che fosse la cocciola che si dovesse passare, che non so come dire, mi è piaciuto un sacco la contaminazione che ha avuto comunque Sì. Beh, anche sulla nostra piccola comunità. anche perché diciamo che come attitudine, la cosa di farlo e passarlo in giro Quindi e così, passarlo diciamo che è abbastanza nelle nostre è corde in generale. compatibile, sì, decisamente. Come Anzi, Magnus. io ho abbastanza, c'era anche questa leggenda in verità che ho letto più su internet che altro, che diceva che appunto molti italiani, soprattutto sardi e valtellinesi, che erano tornati dall'Argentina negli anni 50, erano tornati bevendo mate, abbondantemente mate. E ci sono state fino a qualche anno fa, cioè, se andavi in Valtellina trovavi qualche paruto di questi ex migranti che ancora continuava a bere mate. In alcune zone, questo non si ammettono nessuna fonte diretta per affermarlo, però non vedo perché debbano mentire su questo. In alcune parti della Valtellina, dire stare a fumare mate vuol dire tipo stare a non fare un cazzo, sostanzialmente. Ah, Cioè, tipo in ok. dialetto si dice stare a bere mate per dire stare a non fare un cazzo. Però tipo, credo sia una vecchissima appunto dei vecchi immigrati. Però appunto c'è questa storia che c'è su internet, cerchi mate in Italia, Valtellina, trovi queste info. Pensa un po' te. Sì, Questa. quindi alla fine vedi qualcosa di compatibilità c'è. Dicevano, anzi c'è anche scritto che bevevano il mate con una noce di burro dentro e con il vin brûlé al posto dell'acqua. Minchia, Bello! giusto per stare leggeri. Tra l'altro deve avere un saporino piacevole, mate, vin brûlé e burro tutto insieme. Ci sta. Bello lubrificante, diciamo. Sì, sicuramente piacevole. Per la passione sempre, no? Certo, burro, vin brûlé e bestemmie insieme al mate. In Valtellina. Ci sta. Niente, questo non c'è molto altro da dire in verità sul mate adesso. Probabilmente ci sono un sacco di altre cose da dire, io non ne ho molte purtroppo. Quello che posso dire niente, che appunto è una roba che secondo me fa molto bene, che è più sana del caffè nel lungo periodo dal mio punto di vista, nel senso che io sento che crea meno balzi a livello di cuore, di tachicardia, e quindi immagino che per l'organismo sia un po' pesante. E niente, una bella cosa che lo voglio provare, secondo me fa bene. Allora, io ho pronta qui la canzone che mi hai suggerito prima, che è Coronando Ah, Secondo. canzone è Colorado Secondo di Take 77, che è la, non so come dire, la gioventù uruguaya più popolare, decisamente più popolare. Parte di questo video, come vedete, è girato direttamente dentro una cella del carcere di Montevideo. Ah, ma non lo vedrete, poiché se terrà, però se andate a cercare il video, vedete che è finita Certo, dentro una è cella di la. carcere, Ok. con tutte delle inquadrature fatte dentro carcere. Quindi il pezzo è Coronando Secondo di Peke 77. E boh, ascoltiamocelo e ci risentiamo dopo. Perché siete Yeah. MB04, Punta de Rieles Nuevo. Vamos nosotros, Ay, ay, me corona. menciono que Vin Diesel. Con Hannah Montana vivimos felices. Menciono al Titi de nuevo, lo hice, los negritos feos no pueden morirse. A las 4 te va, 4 y media comiste. Hasta la delincuencia, gordito, decirle. ¿Entiendes, cabrón? ¿O no lo entendiste? Si estás escuchando, soy de lo más triste. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Este momento es mi ley. Yo estuve fuera de la ley con Bonnie and Clay. Le pego los Robin y Jay. Wow. A mí no me mire, estoy loco. Mi cara pegó una foto. Se rompe todo lo que toco. Lo poco me quiere ver roto. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Este momento es mi ley. Yo estuve fuera de la ley con Bonnie and Clay. Le pego los Robin y Jay. Wow. A mí no me mire, estoy loco. Mi cara pegó una foto. Se rompe todo lo que toco. Lo poco me quiere ver roto. Le doy pa' delante, esa es mi religión. No creo una excusa, saluda al llorón. El nene de mami tan lindo soy yo. No salgo de casa, la cosa cambió. Ando en basura, le vení, dámelo. Soy un niño bueno, gracias a Santa Claus. Me dio un chaleco, me dio una glow. Me dio un consejo, pues que mátalo. Como rondo, con la bofa, hasta el fondo, loco. ¿Qué será mi vida si está loco? ¿Qué será mi vida si me robo? ¿Quién le avisaría? Yo no compro, no sea tan tonto. Yo te mataría por un poco, si nadie necesita tener todo. Estoy coronando, tranquilo, me coloco. A cero bajo cero, porque siempre tuve poco. No, que Vin Diesel. Con Hannah Montana vivimos felices. Menciono al Titi de nuevo, lo hice, los negritos feos no pueden morirse. A las 4 te va, 4 y media comiste. Hasta la delincuencia, gordito, decirle. ¿Entiendes, cabrón? ¿O no lo entendiste? Si estás patrullando, sos de lo más triste. Vengo de abajo, sabes, sé cómo es. Este momento es mi ley. Estuve fuera de la ley con Bonnie and Clay. Le pego la Robin y Jay. A mí no me mire, estoy loco. Mi cara me dedicaron una foto. Se rompe todo lo que toco. No puedo ver quién me roto. Vengo de abajo, sabes. Bentornati su Radio ZM, siamo sempre a Dirette dal Nuovo Mondo. Ricordo che ci potete trovare su Facebook, Instagram, su Telegram, sia il canale Telegram, sia potete scriverci a Radio Z-AM chat. Per chiunque volesse interagire con noi, farci delle domande, percularci, qualsiasi cosa, sa dove trovarci. Provocazioni. E niente, quindi... Esatto. Pensavo niente, che abbiamo apprezzato la canzone. Stavamo commentando appunto che te l'ha passata al tuo coinquilino che lavora come educatore, tra l'altro, in un quartiere... Sì, lavora come educatore nel quartiere Marconi, un quartiere, diciamo, periferico qui di Montevideo, di cui tra l'altro c'è anche un rapper di quel quartiere abbastanza famoso, di cui è uscito anche un documentario, che si chiama Don Coni, e... Niente, un quartiere di quelli abbastanza duri, diciamo che ovviamente appunto il fatto stesso che il mio coinquilino ci lavori, comunque lui lavora per lo Stato, era una di quelle persone di cui avevamo già parlato, di vecchi militanti che con i governi degli ultimi 15 anni di fatto sono entrati nelle strutture governative di supporto alle situazioni, diciamo, più... Ok, più diciamo fatto. Che sono una sorta di... non servizi sociali, no, però come i servizi... è quello che si chiama, qui si chiama Ministero dello Sviluppo Sociale. È un ministero che, sì, che si occupa di far sviluppare la società in maniera sana, diciamo. Quindi anche tutte le questioni, per esempio, delle questioni di genere, le questioni carcerarie, la questione della salute mentale, la questione della... appunto... tutte le varie questioni che si occupano della società, quindi un suo sviluppo sostenibile, diciamo, sostenibile dal punto di vista sociale, chiaro che ci sembra quasi strano doverlo sottolineare, però sì, finita lo sviluppo, difficilmente si parla dello sviluppo sociale. Sì, sì, anche se insomma No, anche se niente. Effettivamente tutti i servizi, soprattutto per i minori svantaggiati, sono. Come i privati e altre società. Neanche il fanalino di coda, diciamo, dell'attenzione politica in Italia, proprio Sì, sarà dimenticata. il paradosso che è la ragione con cui mi trovo molto a discutere qui, per esempio, con molte persone, è il fatto che la verità è che moltissimi servizi che qui fa lo Stato, da noi li fa la Chiesa. Li fa o la Chiesa o i centri sociali o piccolissime realtà locali. Sì. Però la verità è che il cioè, qui fa strano perché l'Uruguay è un paese che nasce da un secolo con la laicità come come cosa fondante, non so come dire, Ok. la laicità di Stato è importantissima. Quindi il fatto che ci siano questi tipi di servizi, che qui è normale, nel senso che è assolutamente accettato il fatto che, non so come dire, la gente dei quartieri poveri se ne deve occupare lo Stato, l'eliminazione, non so come dire, della discriminazione delle persone trans, se ne deve occupare lo Stato. Sì. E il fatto che si lasciano, che questi argomenti siano quasi antagonistici con la narrazione statale italiana è abbastanza, qua lascia sempre un po' di stucco, non so come dire, il fatto che non esista un Ministero dello Sviluppo Sociale, Sì, non sì. so, è molto, cioè, dà molto l'idea del fatto del nostro tipo di sviluppo, di come un paese comunque sia molto più umile, mi viene da definirlo come l'Uruguay, che non ha mai sentito dire, ah, abbiamo la culla della democrazia, il paese sviluppato, il primo mondo, nessuna di queste arroganze, però nonostante questo riesce effettivamente con lo Stato a occuparsi di una serie di questioni che in Europa vengono completamente ignorate, colpevolmente anche molte volte. Sì, e lasciate un po', diciamo, Nel all'iniziativa del. senso, non è nemmeno una, molte volte non è nemmeno una, e lo vediamo questi giorni con la questione dei migranti, per esempio, non è nemmeno una questione di non sapere una questione, di non avere il controllo, una questione di volontà, di voler mantenere certe situazioni nell'emarginazione, nell'ombra, perché così fa comodo. È il caso, per esempio, della non regolarizzazione, del fatto che si debba discutere se regolarizzare o meno persone che vanno a lavorare in agricoltura, all'idea di come certe situazioni, certe dinamiche vengano volutamente ignorate perché fa comodo. Sì, che tra l'altro non è neanche una regolarizzazione Sì, infatti autentica, se è possiamo dire, è un permesso di lavoro temporaneo. la schiavitù a tempo. Eh sì. Purtroppo Sì. è così. Vabbè, siamo. Ma Purtroppo comunque. primo mondo, secondo mondo e terzo mondo sono delle categorie che si è inventato il Banco Mondiale, perché se dovessero valutare sullo vero sviluppo di un paese sarebbe molto diversa Sì, alla fine se ci la pensi, classifica. gli Stati Uniti, che sarebbero il primo dei paesi del primo mondo, è quello che ha saputo reagire peggio a questa situazione, perché oggettivamente è Sì, il ma al di là di paese questa che. situazione è uno di quei posti dove, non so come dire, molti. Vabbè, no, questo è un discorso molto complesso di cui potremmo parlare un'altra volta, però sì, è esattamente quello il punto, nel senso, il primo mondo degli Stati Uniti è esattamente quello perché ha vinto la guerra, perché davvero non ha nessun tipo di standard che lo renda meglio di altri paesi, a parte il PIL pro capite, Eh però a sì, livello di istruzione, a esatto. livello di sanità, a livello di qualunque altro tipo di valore, indice umano di sviluppo, è assolutamente un paese del terzo mondo, un ricchissimo paese del terzo mondo. È come la Nigeria, non so come dire, un paese ricchissimo, pieno di risorse, dove però la gente se la passa male. Beh, sì, insomma, Allora, più o questo meno come è un la Nigeria. paragone veramente chiaro, però dico, per dare l'idea del senso che non è che il picco capite o la ricchezza di un paese fa la ricchezza del. Lo sviluppo del paese, perché se no la Nigeria o quei paesi africani sarebbero i paesi più ricchi al mondo, quello dicevo. Certo. E niente, Greta è Vabbè. qui in radio con noi. Se vuoi darle i saluti, la Greta. salutiamo in diretta. E niente, quindi mi dicevi che tu stai iniziando a dare ripetizioni di italiano. Hai Per trovato questa? aiutare dei ragazzi che hanno fatto il corso per diventare professori di italiano. Weyla, quindi tu farai il Esattamente. professore dei professori? Esattamente. Siamo abbastanza a ridere perché non hanno, ovviamente, diciamo, le robe di grammatica, non mi azzardo a esserci troppo naso perché dovrei studiarmele bene. Certo. Però mi fa ridere perché di per sé il programma di studio delle materie, soprattutto quelli che hanno difficoltà, sono le materie del liceo nostra, quindi sono letteratura latina, storia, letteratura italiana. Ci sta. E quindi insomma fa abbastanza giusto. Ridere perché ti ritrovi a dover fare delle classi di liceo a delle persone di 40-50 anni che non hanno idea, magari tu li parli di Augusto e non hanno mai sentito prima. Quindi insomma è abbastanza divertente perché è come abbastanza divertente, sono delle dinamiche divertenti. Adesso. Beh. Interessante. Quindi hai parlato meglio, di Augusto. Vi racconterò meglio quando ci avrò degli aneddoti interessanti, le prossime settimane li racconterò. Ci adesso sta. Ci sto giusto iniziando. Bravo mio giovane amico, i miei complimentoni. Allora, per il pezzo conclusivo, il pezzo musicale conclusivo della trasmissione, mi affiderei al nostro R2D2 di fiducia in radio, che è il nostro auto DJ. Beh, che sceglierà tutto di meglio per noi la traccia. È partito un pezzone, tra l'altro, di MF Doom and Grim, quindi sentiamocelo e ci risentiamo giovedì prossimo, stessa ora, stesse frequenze. Bene, Melmo, con un approfondimento probabilmente che non anticipiamo, però probabilmente con un approfondimento molto interessante. Yeah. Alla settimana prossima, allora. Alla settimana prossima. Ciao Tesa, ciao amici. Ciao, ciao. Pressing up units for more to make them sell. Messing up universe, fractal cause chaos. Communicate with the dead, grim is in the seance. Don't take it personal, this is strictly business, kid. Nosy niggas wanna hang around, we killing witnesses. We're into torture, have you tired of hollering? Bleed, let you die slow, in heaven hovering. Faced by adversaries, every confrontation conquered it. Faces of my adversaries, mutilation severed it. Traces of my...